I fantastici viaggi di Sinbad, parte seconda. Le uova di Roak. Tac, tac! Ehi, aspetta! Io sto volando, Tic. Se aspetto, cado. E perché respiri così pesantemente? Prendi tempo. Respira. Senti l'aria tra i capelli. Ondeggia insieme al vento. Sì, non ho capelli. Mia moglie mi ha chiesto di tagliarli. Ha detto che sembro un'aquila. Puoi crederci? Mi chiama Aquila. Vorrei avere i capelli come te. Quei tre fili cambiano il tuo intero aspetto. Ah, lo so. Uso il siero per mantenerli vivaci. Questi umani ne buttano tantissimo, bottiglie intere. Davvero? Naturalmente. Perché pensi che tutti gli uccelli abbiano le piume morbide? E come pensi che Roak abbia fatto arricchire il mercante? Sono sicuro che è il siero che ha reso le sue piume così spesse. Roak? Una pietra? Una pietra ha reso ricco un mercante? Non Roak. Roak. Roak! Non conosci questa storia e adesso? Non sono sorpreso. Visto che anche questo è uno dei viaggi di Sinbad. Sinbad? Dimmi! Andiamo alla pentola magica. Acqua, acqua limpida e blu. Mostraci tutto ciò che sai tu. Dopo il suo primo viaggio, Sinbad aveva costruito una casa a Bagdad. Era felice lì, ma presto iniziò a soffrire perché voleva tornare in mare. Voleva fare di più e guadagnare di più, in modo da poter vivere una vita migliore e anche aiutare la sua gente a Bagdad. Sinbad decise di salpare di nuovo. Il padre di Sinbad aveva un vecchio amico di nome Kabir. Oh, Sinbad, vieni! È passato così tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Sì, zio, è passato parecchio tempo. Non ti vedo salpare da qualche mese adesso. Hai qualche merce che posso commerciare in altri porti? In questo modo i tuoi affari potrebbero andare avanti e io guadagnerò dei soldi extra. Mi dispiace tanto, Sinbad. Vorrei poterti aiutare a guadagnare un po' di soldi, ma non ho merci da scambiare. Io ho già dato quello che avevo a qualcun altro. Lui non viene da Baghdad. Tu non lo conosci. Nessuno lo conosce. Ok, ho un altro lavoro adesso. Prosegui con la tua vela. Buon viaggio. Perché lo zio aveva tanta fretta? E perché ha consegnato le sue merci a qualcuno che non è di Baghdad? Questo è strano. Il giorno dopo, Sinbad salpò con le sue merci per commerciare con altri porti. I giorni passarono e Sinbad fece molti amici sulla nave. Un mostro con un occhio. Vecchio uomo di mare. Queste sono tutte storie, giusto? Ci credi davvero? Questo mare è pieno di misteri, amico mio. Prima di incontrarti, non credevo che una balena potesse far crescere una foresta sulla sua schiena. Oh, sì. Ora capisco cosa stai dicendo. Speriamo di riuscire a rimanere lontani da questi misteri. Ma il destino aveva programmato qualcos'altro. La nave fu presto ancorata a un'isola. Oh, terra! Riposiamoci qui per un po' di tempo. Ci aspetta una lunga navigazione. Che posto meraviglioso. Devo assicurarmi di non andare troppo lontano nella foresta ora. Non voglio che mi lascino indietro come l'ultima volta. Il mare rende così difficile riposare. Voglio dormire per un po' di tempo qui. Ah, che bel posto! Dobbiamo sempre parlare. Facciamo silenzio. Dove sono tutti? Cosa? Dov'è la nave? Cos'è successo? Ehi! C'è nessuno? No, mi hanno lasciato qui. Come hanno potuto farlo? Cosa faccio ora? Aspetta, non può andare così male. Sono sicuro che una nave passerà da quest'isola. Fammi salire su un albero per avere una visuale migliore. Passarono le ore, ma nessuna nave arrivò. Sinbad si era stancato. La prossima volta che partirò per viaggiare, farò in modo di farmi legare alla nave. Oh, le ancore sono legate alla nave. Sono così sfortunato che forse i miei uomini mi butterebbero in acqua al posto della loro ancora. Ma tutto questo solo se torno a casa. Quanto mi manca Baghdad. Non avrei mai dovuto partire. Oh, cos'è quello? Oh, sembra una gigantesca roccia bianca. Questo è strano. Questo sasso è davvero lucido e morbido. Oh, è già buio? Cos'è quello? No, non è notte. È l'ombra di questo uccello. Quello è l'uovo gigante dell'uccello. Se solo potessi chiedere a questo uccello gigante di riportarmi a Baghdad. Aspetta, ho un'idea. È rischioso, ma questa è l'unica possibilità di lasciare quest'isola. Sinbad si tolse il turbante e si legò alla gamba dell'uccello. E l'uccello volò. Oh, mi fa male la testa. Abbi pietà, uccello gigante. Vai da qualche parte. No! Lo porto indietro. Non andare giù. Non andare giù. Sto per vomitare. Per fortuna, l'uccello atterrò prima che Sinbad svenisse. La mia testa. No, no, no! Oh, la mia schiena. È così buio qui. Devo essere molto sottoterra. Come posso tornare su? Ehi, vedo una luce. Che cos'è? Serpente? È gigantesco! Non ho mai visto un serpente così grande in tutta la mia vita. Cosa? Oh no! Quindi è così che muoio? Aspetta, perché non escono i serpenti? Oh certo, hanno paura dell'uccello. Grazie a Dio se ne sono andati. Accidenti. Ora, e ora? Santo cielo, rubini, diamanti, che posto è questo? Sinbad era un mercante. Sapeva bene quanto fossero costose quelle gemme. La sua intera vita sarebbe cambiata con l'aiuto di quelle pietre. Ma, ahimè, spendo sempre tutti i miei soldi in cose inutili. Qui, in questo fossato, sono circondato dai rubini più cari. Eppure sono così povero. Il denaro è inutile per me ora. Perché questo posto odora di carne? Da dove viene questo odore? E questa carne? Sì, questa è carne! Perché questo uccello non può smettere di urlare per una buona volta? Cosa sta cercando? La carne? Aspetta, sta cercando per la carne, ovviamente! Lei può portare questa carne ai suoi cuccioli lassù, ma può anche mangiare questa carne proprio qui. Non importa, non posso lasciarmi scappare questa opportunità. Sinbad era un mercante intelligente e un uomo coraggioso e valoroso. Raccolse il maggior numero di pietre che poteva e le mise in fondo alla tasca. prese la più grande delle pietre da portare con sé. Quindi spostò la roccia e mise il pezzo di carne bene in vista per l'uccello. Sapeva che poteva essere mangiato dall'uccello insieme al pezzo di carne. Eppure si legò al pezzo di carne e si arrese al suo destino. Sì, avevo ragione, sto portando il pezzo di carne ai suoi cuccioli. Aspetta, il che significa... Lasciami! Lasciami! Sinbad, cosa stai facendo qui? Zio Kabir, cosa stai facendo qui? Io? E tu, cosa stai cercando di prendere dal nido? Va bene, te lo dirò. Stavo cercando di prendere i rubini. Rubini? Sì, ecco come sono diventato e rimasto ricco. Getto carne per l'uccello nel fosso dove ci sono i rubini e i diamanti. Quando va a prendere la carne, prende anche dei rubini. Quindi li lascia cadere nel nido per i suoi cuccioli. Li tiro fuori quando va a cercare più carne. So che questo è terribile da parte mia. Per favore, non odiarmi. Odiarti? Mi hai salvato la vita. Ho pensato che sarei morto qui, ma devi smettere di farlo. Questo è pericoloso. Ecco, ho alcuni rubini e diamanti con me. Voglio darteli per avermi salvato la vita. Prendi tutto quello che vuoi. Non devi continuare a rischiare la tua vita ora. Kabir non aveva mai visto rubini così grandi in tutta la sua vita. Oh, sei un bravo uomo, Sinbad. Ne prenderò solo uno. Tu tieni il resto. Questo è abbastanza per me per vivere prosperosamente per il resto della mia vita. Grazie, figliolo. Ora torniamo a casa. Voglio ascoltare la tua storia. Come sei finito qui? Oh, ecco cos'è successo. E così, ancora una volta, Sinbad tornò a casa a Baghdad, sano e salvo. Wow! Ma chi è questo Rock? Allora? L'uccello, Tik! L'uccello! Oh! Come facevo a saperlo? Non me l'hai detto! Sì, colpa mia. Cosa ne è stato del pezzo di carne così grande? Ah, non era un normale pezzo di carne. Ma ne riparleremo la prossima volta. Andiamo ora. Tik! Sì, arrivo!